Sura 71. Noh. Noè. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. In verità inviammo Noè al suo popolo. Avverti il tuo popolo prima che giunga loro un doloroso castigo. Disse, o popolo mio, in verità io sono per voi un ammonitore evidente. Adorate Allah, temetelo e obbeditemi, affinché perdoni una parte dei vostri peccati e vi conceda dilazione fino a un termine stabilito. Ma quando giungerà il termine di Allah, non potrà essere rimandato, se solo lo sapeste. Disse, Signore, ho chiamato il mio popolo giorno e notte, ma il mio richiamo ha solo accresciuto la loro repulsione. Ogni volta che li chiamavo affinché tu li perdonassi, si turavano le orecchie con le dita e si avvolgevano nelle loro vesti, pervicaci e tronfi di superbia. Poi li ho chiamati ad alta voce. Li ho arringati e ho parlato loro in segreto dicendo, «Implorate il perdono del vostro Signore, egli è colui che molto perdona, affinché vi invii dal cielo una pioggia abbondante, accresca i vostri beni e i vostri figli, e vi conceda giardini e ruscelli. Perché non confidate nella magnanimità di Allah, quando è Lui che vi ha creati in fasi successive? Non avete considerato come Allah ha creato 7 cieli sovrapposti, e della luna ha fatto una luce e del sole un luminare? È Allah che vi ha fatto sorgere dalla terra come piante. Poi vi rimanderà ad essa e vi farà risorgere. Allah ha fatto della terra un tappeto per voi, affinché possiate viaggiare su spaziose vie. Disse Noè, Signore, mi hanno disobbedito seguendo coloro i cui beni e figli non fanno che aumentarne la rovina. Hanno tramato un'enorme trama e hanno detto, Non abbandonate i vostri dèi. Non abbandonate né Wad, né Sua, né Yahut, né Yahuk, né Nasr. Essi ne hanno traviati molti. Signore, non accrescere gli ingiusti altro che nella perdizione. A causa dei loro peccati sono stati affogati e poi introdotti nel fuoco, e non trovarono nessun soccorritore all'infuori di Allah. Pregò Noè, Signore, non lasciare sulla terra alcun abitante che sia miscredente. Se li risparmierai, travieranno i tuoi servi e non genereranno altro che perversi ingrati. Signore, perdona a me, ai miei genitori, a chi entra nella mia casa come credente, ai credenti e alle credenti. Non accrescere gli ingiusti, altro che nella rovina.